tutta da vedere, anche perché, vabbè, noi c'avevamo le sue, c'erano le assistenti, ci trattavano bene anche. Le suore, io non le ho mai potute vedere per queste cose qua, ma è normale che sono, che hanno la religione, se tutto questo è la religione, devono anche rispettarli, e invece sono marito. La mamma di quello vicino a casa è andata a trovarlo, come le avevo raccontato la storia, se l'ha ritirato e voleva ritirare anche a me. Stavo per chiamare la mamma per vedere se si poteva ritirare, perché ci aveva fatto questa cosa. Non è sale grosso, ma lei era per vedere i mali lì, non c'è sale grosso. Non è giusto, cioè, non è giusto fare queste cose, assolutamente. Sinceramente quello che non c'è. Io le suore non le ho mai potute vedere perché ho sentito tutti questi discorsi. Tu come ti permetti, tu che sei suora, tu che c'è la religione, devi trattarli bene i ragazzi, non li devi trattare male. Bombolino? Bombolino? Sì, yeah. Vabbè, adesso com'è? Basso? È più basso, sì. Ah, sono in macchina lì? Vabbè, forse... Forse c'è un punto favorevole per me. E cappa. E beh già, com'è in macchina? Io va bene. Ah, No, me ne sono sceso perché tanto stavo già di quello il caldo. No, hai scelto a uscirmene un attimo, tanto se no ecco fuori il capo. Dico già. Sì, non potrei uscire anche io perché tanto sono in ferie, non sto lavorando. In ferie sì. Vabbè. Sarei venuto a casa tua, sotto casa tua, a darci a bere una cosa, ma sono in uscia. Sì, affettina, c'è problema. No, non c'è problema, non c'è bisogno di bere. Sì, ma c'è con ricatto, è inutile, alzati, mettiti voi, no, non ti voglio disturbare. Dove ce ne andiamo? Dove ti fare piaccia? Apportiamo una prendere un po' d'aria. Io, per me non ce n'è problema. Io passo sotto casa, ce ne apportiamo una piaccia un po' d'aria. Sì, vabbè, sto arrivando, sono in giabatte. Giabatte? Di quelle giabatte tipo polacchine, capito? Non c'è problema, tanto ci vedo dei minuti, mi devo mettere un paio di pantaloncini corti, una maglietta e il zattero, un cavaglio, altro ci sentiamo là, che ve la preparare. Vabbè, Farelli non ti avrà mai sentito, basta così. Non so. Vediamo, se è pazienza, io mi devo cambiare adesso. Pochi notte già, no, non è che sto andando questa notte. E io ci viene a tu? Io domani ho una lunga giornata di lavoro. Non posso, no, magari. Ok, ora non è che tardiamo molto, faccio una mezz'oretta, siamo nuovamente a casa. No, grazie lo stesso. Vabbè, fai come vuoi, noi ti abbiamo invitato, se vuoi venire non ce n'è problema. Ma alla prossima volta, dai. Ti sto aspettando ad andarmene in ferie. Quando decidi ce lo fai sapere, vediamo e capito, non ce n'è problema. Se scappa, mi metti dietro il sedile qualche bella ragazza, io sono troppo contento. E adesso mi vado a prendere Gianni e così ci pigliamo una boccata d'aria. Hai capito? Ho pagato, ma non problem. Scarpati di cambiare. Cos'è? Scarpati di cambiare. No, negativo. Sono già fatte. Un paio di jeans e una maglietta. Può guidare a ciabatte. Cos'è? Cos'è tu? Può guidare a ciabatte. sì. La cintura ce l'ha. Cintura non so ce l'ha. Ce l'ho la cintura. Va. E me. 10 minuti. Ce l'ha la prossima volta. Così, ci beviamo una cosa e poi ce ne andiamo. Giusto per svegliare un po', capito? Che affagappa. E io ho messo. Ho qua, ma più grande, mamma mia. Io ho le scatole piene, voglio fare un po', hai capito? C'è troppo caldo, c'è. Fagappa. E io sto qua. La gamba stava tu. E vabbè, dai, non c'è problema. Ok. Sono qua. Siamo qua, dai. Fagappa. Ecco, calato o ha passato per il segnale, tu? Adesso ha migliorato. Vabbè, che sono in zona dietro casa ai Gianni, sono, dai. Ma tu non ce l'hai a digetto? Che digetto? Sì, già ho so quello, che quella cosa dorata o argentata. No, negativo. Raga, ma con quello lì si fanno i miracoli. Vabbè, io non so che vuoi fare. Qua, e io... Io sono uscito con 5 passi, sono puliti puliti, diciamo non è vero, viene a controllare, se mi trovi la stufetta in macchina, gran regalo. Yeah, ma io adesso posso credere perché quello non è segnale di pompaggio. Quando si attacca l'amplificatore e apre e tutto c'è tutta un'altra modulazione. Lasciate vedere, se fra un po' anche la etichetta la trattiamo parecchio, capito? Adesso vi faccio un microfono digitale, capito? Certo. Allora, quando si inserisce quello, tu senti sempre un altro tipo di modulazione, senti? È più forte, diventa più aggressiva, più forte. Però adesso c'è la voce così, tu attacca quello lì e aumenta ancora di più. Sì, lo so, che aumenta molto di più di frequenza, però quando la possibilità non ce l'hai di farlo mettere, si usa così, se no, hai capito, piano piano, si fa tutto quanto, hai capito? Ma oltre che il segnale aumenta anche la modulazione di parecchio pure. Soprattutto 747 è così, non ti fa uscire distorto, dai. Come si dice. Non vuoi saturazione perché c'è fino alla morte. Poi fino da 5 a 10 ed è perfetto. Capo, dai, ti faccio un'altra persona, dai. Ti faccio una persona. Ah, sì. Sei un topolino? Sì, come me la senti? Aspetta che vado un attimino così a capito. Ah, adesso è vero, io faccio... Ma Kinga, Kawagawa, ci siamo solo calpestati. Oh, negativo. Sì, sì, ma è una bella pesce, grazie. Preferisco più la macchina a coso a furgoncino tipo doblò o roba del genere. Vabbè, Anto, il fatto è che magari tu non ne vedi la necessità, ma uno che c'ha famiglia che deve garantire la roba, fare la spesa, fare tutte quelle cose che devi fare, portare la roba del mare, coso, poi io che uso specialmente mi porto un po' di attrezzatura in pesca, quando vado a pescare mi porto solo una sacca tutta piena di piumi, di coso, un po' di roba, quindi va bene, va più che bene, io mi carico 10 casse d'acqua dietro, il latte, la spesa, tutto questo, io vado la mattina minore non mi carico. Preferisco più una macchina tipo Longlo e cose varie, capisco? Spaziosa, è grande, la vista. C'è anche quello della Volkswagen, cioè sono tutte quelle macchine lì che hanno un po' di spazio, sono a 7 punti. Quelle macchine lì mi piacciono un po'. Poi ti la Mercedes, sai tu, mi fanno la Mercedes così lo può fare a mano. Cosa Mercedes? Ma per carità. Ti piace la Mercedes? Caspita. La Mercedes? Ma se ne fai anche di drone. E quale che macchina ti piace? Mi piacciono le Mercedes, no, assolutamente. Per la Mercedes preferisco il BMW. E cosa ti piace il BMW? A me mi piace l'Audi TT. Ma per non pigliare un Mercedes guarda mi prendo l'Audi. Veramente no, non mi faccio troppo. Esteticamente non ti va il modello, ecco. Ma comunque come macchina è molto sicura. Quando vedi di golfi, prima di via Massante venivo, mi sembra che si è spiegato. Come quello che l'ha avuto la Ripucchi, che si è stato guardato il restauro verde, non mi è stato da arrivare. Ma io ho visto Mercedes sfondare i guardi, le cose, e il tipo non farci nulla. Perché sono molto sicure come macchine, dai, c'è un motore un bel grosso. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace,